Speciale, la politica nel tunnel. Buon pomeriggio qui da Montecitorio e da Elisabetta Fiorito. Buon pomeriggio da Vincenzo Miglietta. Iniziamo allora con quanto è successo questa mattina al Quirinale, dove Silvio Berlusconi e Roberto Maroni, PDL e Lega, hanno incontrato il capo dello Stato Giorgio Napolitano e ribadito il sì ad un governo di larghe intese anche a guida PD, anche a guida Bersani. Sentiamo allora a questo proposito Silvio Berlusconi. Abbiamo avuto questo incontro con il Presidente, dove abbiamo manifestato la nostra posizione, che è la posizione di sempre, da dopo che si è conosciuto il risultato delle elezioni, con praticamente tre forze che hanno rappresentato e rappresentano un terzo degli elettori. Una di queste forze si è posta all'opposizione, è nell'ordine della razionalità e nell'interesse del Paese che le altre due forze devono trovare il modo per dare vita insieme a un governo. Quindi la nostra posizione non è cambiata, l'abbiamo espressa con, credo, assoluta chiarezza al Presidente. Noi eravamo e siamo ancora disponibili a dare vita a un governo di coalizione cui partecipi il Partito Democratico, il Popolo della Libertà, la Lega e Scelta Civica. Non riteniamo che ci sia un'altra soluzione se vogliamo dare seguito alle esigenze del Paese. Noi siamo disponibili a che il Partito Democratico avanzi una sua candidatura, ci va bene assolutamente la candidatura del segretario Bersani, così come ci vanno bene anche altre possibili candidature. Queste dunque le parole di Silvio Berlusconi, lo abbiamo ascoltato. Berlusconi a favore di un governissimo PD, PDL, Scelta Civica e Lega. Deve essere un governo però politico e non tecnico, dice Berlusconi, per evitare gli errori del passato. Posizione questa ribadita anche dal leader della Lega, Roberto Maroni. Sentiamo questo passaggio. Confermo che questa è la posizione della Lega. Noi siamo disponibili a sostenere un governo di coalizione, ma non un governo politico che dia risposte, ma non un governo tecnico. Siamo stati contro il governo Monti, figuratevi se arriva un altro governo di questo tipo, meglio, mille volte meglio le elezioni. Vogliamo che ci sia un governo che dia risposte a chi governa le regioni del nord, ma deve essere un governo politico. E queste sono le condizioni che abbiamo detto al Presidente della Repubblica. E in questo momento stanno proprio uscendo dal Quirinale i capigruppo del Movimento 5 Stelle, che hanno appena incontrato il capo dello Stato Giorgio Napolitano e hanno ribadito la linea dura dei giorni scorsi, disponibili solo per una guida a un governo a 5 Stelle, ha detto Vito Crimi, capogruppo al Senato. Questa mattina invece sembrava esserci stata un'apertura di Beppe Grillo con una telefonata intercorsa insieme a Giorgio Napolitano e ci sarebbe stata un'apertura verso un governo di pseudotecnici, apertura in questo momento smentita da Vito Crimi, ricordiamo, che ha appena detto non vogliamo un governo politico, non vogliamo un governo di pseudotecnici, ma solo un governo a 5 stelle, non accordiamo fiducia a governi pseudotecnici, quindi quello che era sembrato un'apertura in realtà è subito stata una chiusura. Vincenzo. Quindi ecco, il Movimento 5 Stelle chiude a qualsiasi ipotesi che non contempli una guida loro, una guida del Movimento 5 Stelle, ma un altro fronte che ha aperto un po' il dibattito delle ultime ore è proprio la ricetta economica del Movimento 5 Stelle per il Paese. Grillo ha rilanciato l'abolizione dell'IRAP per aiutare le piccole e medie imprese, compensando la perdita per le entrate dello Stato con il taglio alle spese della politica. Ma quindi qual è il programma nello specifico del 5 Stelle? Tu, Elisabetta, hai sentito Laura Castelli, deputata 26enne, che era stata candidata dai grillini come questore, priorità per il movimento e anche la restituzione dei debiti della pubblica amministrazione verso le piccole imprese. Sentiamo questo passaggio. Allora, il Movimento 5 Stelle intanto comincia a interrogarsi delle motivazioni che hanno portato oggi una situazione così drammatica. Sono tantissimi miliardi che devono essere percepiti dalle piccole e medie imprese nei confronti della pubblica amministrazione, quindi la nostra proposta, oltre a chiaramente quella di appoggiare la copertura di questi crediti, è assolutamente quella di ragionare su questi paletti europei. E a parte i paletti, il Movimento 5 Stelle poi preme sempre sul fatto che le risorse vanno trovate come? Perché qui bisogna sempre capire come si trovano i soldi in Italia. Siamo in un momento dell'anno per cui tra pochi giorni, il 10 di aprile, dovremo presentare il DEF e allora lì potremo parlare di coperture finanziarie, potremo parlare dei nostri punti che sono assolutamente a capo di tutte queste politiche. Non possiamo pensare di fare politiche di sostegno alle piccole e medie imprese senza fare dei tagli decisi lì dove è necessario. Avete già individuato gli sprechi? Beh, noi parliamo sempre di rimborsi elettorali, ma quelli sono tantissimi. Con i rimborsi elettorali di quest'anno potremmo pagare il 2013 della manovra che vorrebbero fare sugli esodati, per esempio. Quindi uno è il rimborso elettorale, poi i tagli? Sono i tagli delle province in tutta Italia, ci sono i tagli delle missioni chiamate di pace, ci sono tutto quello che riguarda l'evasione, l'elusione fiscale, la criminalità. Però è un secondo tempo, quindi è più facile tagliare per recuperare, no? Però bisogna cominciare a lavorarci, perché non è un caso se nessuno se ne vuole occupare in questo momento. Cioè, ogni anno vediamo in bilancio 10 miliardi contro l'evasione fiscale, però non c'è mai una netta volontà di costruire un tavolo a fronte di questo, quindi una legge anticorruzione fatta bene, ripensare Equitalia che andrebbe abolita, ripensare a una riforma della Corte dei Conti piuttosto che altre cose. Ecco, questa era Laura Castelli. Invece i capigruppo, ricordiamo Vito Crimi e Roberta Lombardi, stanno parlando ancora al Quirinale, quindi stanno rispondendo, e questa è una novità, alle domande dei giornalisti del Movimento 5 Stelle. Dicono: se Napolitano ci dà l'incarico, noi daremo un nome per il Presidente del Consiglio e un programma. Poi c'è una polemica, un botta e risposta sui costi della politica per la formazione del gruppo Fratelli d'Italia qui alla Camera. Era gruppo composto da 9 deputati, ce ne occorrono invece 20, quindi c'è stata una deroga che secondo i 5 Stelle costerebbero 400.000 euro in più, secondo Fratelli d'Italia invece non comporterebbe nessun costo aggiuntivo, ma noi indagheremo nei prossimi giorni proprio per sapere un pochino la verità. Intanto Napolitano sta vedendo in questi minuti la delegazione di Sinistra Ecologia, la delegazione di Scelta Civica, quindi Montiani, tra un'ora Sinistra Ecologia e Libertà e quindi alle 18.30 il Partito Democratico. Ed è interessante, Elisabetta, sentiremo la risposta ufficiale proprio di Largo del Nazareno a quest'ipotesi di governissimo avanzata questa mattina da Berlusconi e Maroni. Nel frattempo su questo si è espresso Luigi Zanda, capogruppo PD al Senato, che ha detto siamo troppo distanti PD e PDL per far sì che questa ipotesi del governissimo possa diventare reale, si tratterebbe di un'estrema razio anche per Laura Puppato. Sulla necessità di un governo torna intanto il Presidente del Senato Piero Grasso, che non crede che verrà lui convocato al Quirinale, anche se ribadisce la sua disponibilità qualora fosse necessario. Sentiamo allora il Presidente del Senato. Mi aspetto che finalmente questo paese abbia un governo. Siccome qualcuno continua a dire che si può andare avanti senza un governo, io al di là delle teorie dei costituzionalisti vi posso dire che io ci ho provato, è impossibile poter far partire l'attività delle commissioni permanenti. Dobbiamo assolutamente partire per incominciare quelle riforme che possano dare lavoro, che risolvano i problemi degli esodati, i problemi dei disoccupati, i problemi di coloro che rischiano di perdere ulteriormente il lavoro. E questo era Piero Grasso, insomma un paese diviso, lacerato. Allora noi abbiamo chiesto a una voce fuori dalla politica, al regista Maurizio Scaparro, che debutterà al Quirinale di Roma martedì con La coscienza di Zeno, un parere sull'attuale situazione politica e su questa lacerazione del paese e delle forze politiche. Sentiamo Scaparro. In queste spaccature non c'è la cultura. Uno che si rimprovera all'altro che non è presentabile. Io mi domando se chi oggi dice, come per esempio il Movimento 5 Stelle voi siete impresentabili, io vorrei dire perché non si presentano e ci dicono chi sono, come direbbe Pesolini. Lei non sa chi sono io, zitti tutti, il Signore ci dice chi è. Ecco, e così vediamo qual è la presentabilità di Grillo. Forse vale la pena anche parlare di quello. Però il fatto che stiamo vivendo un fatto naturalmente nasce anche, non vorrei dare tutte le responsabilità di quello che accade alla mancanza di cultura, però una buona parte sì. E così ho la sensazione che la mancanza di cultura finirà a un certo punto, anche perché qualche segnale positivo lo sto vedendo, malgrado la tragedia che viviamo tutti noi, no? Noto che per esempio nel teatro, l'affluenza al teatro non è diminuita così come sono diminuite altri incontri, forse è più diminuito il cinema perché trova il suo surrogato immediato nella televisione. In realtà il teatro c'ha questo di forza, che è comunque un incontrarsi, è comunque una piazza, e il teatro è una delle nostre agorà del nostro vivere civile, per questo resiste nelle sue diversità molto bene. Ma per i grillini sia la televisione sia il teatro sono ormai obsoleti perché si va solo su internet. Il computer serve ad avere notizie, non ad approfondirle, capito? Che è il male del nostro. È chiaro che noi viviamo grazie, oggi siamo tutti arricchiti da internet, dalle nuove tecnologie, dallo streaming, però ti accorgi che l'approfondimento è qualcosa d'altro, e poi rischia che chi usa usa internet non sappia cosa significa mamma. Queste dunque le parole del regista Maurizio Scaparro sull'attualità politica, attualità politica che resta legata strettamente al Movimento 5 Stelle. Napolitano ci ha riferito che mancano le condizioni per una maggioranza politica. Queste le parole dei capigruppo 5 Stelle, Crimi e Lombardi, pochi istanti fa, ma le consultazioni termineranno tra circa un'ora. E quali sono gli scenari, Elisabetta? Intanto bisogna dire che c'è un nuovo sondaggio SVG che dà il PDL in aumento di consensi al 26,2%, scende invece di quasi mezzo punto, 0,4% il PD, e il Movimento 5 Stelle invece perde il meno 2,1% e arrivando al 24,8%. Questi, insomma, di questi scenari bisognerà tenere anche conto del sondaggio. Noi vi auguriamo una buona Pasqua qui da Montecitorio, un saluto da Elisabetta Fiorito e da Vincenzo Miglietta.